Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tommaso Ragno legge Camera con vista, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Marcella Bonsanti. Cecil si disse, e ha ragione, che il loro primo abbraccio era stato un fallimento. La passione dovrebbe credersi irresistibile, dovrebbe dimenticare la cortesia e i riguardi e tutte le altre pieghe che affliggono un'indole raffinata. E soprattutto non dovrebbe mai chiedere il permesso laddove esiste un diritto di passo. Perché lui era incapace di fare quello che avrebbero fatto un contadino o un marinaio qualunque, anzi un qualunque garzone di bottega? Cecil rimaneggiò la scena. Lucy, simile a un fiore, sostava in riva all'acqua. Lui le volava incontro e la prendeva tra le braccia, lei lo redarguiva, gli cedeva, e da allora in poi lo avrebbe sempre riverito per la sua virilità. Cecil credeva infatti che le donne riveriscano gli uomini in virtù della loro virilità. Si allontanarono in silenzio dal laghetto dopo questo unico saluto. Cecil attese di sentirle fare qualche osservazione che gli rivelasse i suoi pensieri più reconditi. Alla fine Lucy parlò, e con gravità confacente. Emerson si chiamava, non Harris. Chi? Il vecchio. Quale vecchio? Il vecchio di cui ti ho detto, quello che il signor Iger trattò così duramente. Cecil non poteva sapere che mai si era svolto fra loro un dialogo più intimo. La vita, fin dove Lucy si dava la pena di concepirla, era una cerchia di persone ricche, affabili, con identici interessi e identiche nemicizie. In quella cerchia si pensava, ci si sposava e si moriva. Al di fuori c'erano la miseria e la volgarità che tentavano perennemente di invaderla, proprio come la nebbia di Londra tenta di invadere le pinete dilagando attraverso le gole montuose del nord. Ma in Italia, dove chiunque ne abbia voglia può godersi il tepore dell'uguaglianza come quello del sole, questo concetto della vita era sparito. I sensi di Lucy si dilatarono. La ragazza ebbe l'impressione che non ci fosse nessuno verso il quale non sarebbe riuscita a provare simpatia, che le barriere sociali fossero senza dubbio inamovibili, ma non di un'altezza speciale. Si scavalcano con un salto, nella stessa maniera in cui sugli Appennini con un salto ci caliamo nell'oliveto di un contadino e lui si rallegra al vederci. Lucy tornò dall'Italia con occhi nuovi. Questo accadde anche a Cecil, ma l'Italia non aveva stimolato in lui lo spirito di tolleranza, bensì di insofferenza. Il giovane si accorgeva che la società locale era gretta, ma invece di dire «conta poi tanto in fondo», le si ribellava e cercava di sostituirvi la società che definiva «di larghe vedute». Non capiva che Lucy aveva consacrato il proprio ambiente grazie alle mille piccole attenzioni che col passare del tempo creano una tenerezza reciproca e che quantunque i suoi occhi ne scorgessero le imperfezioni, il suo cuore si rifiutava di disprezzarlo in blocco e neppure era in grado di compiere una considerazione più importante. Se Lucy era troppo grande per quella società provinciale, era troppo grande per ogni società. E aveva raggiunto lo stadio in cui soltanto i rapporti personali potevano appagarla. Era sì una ribelle, non però della specie che lui comprendeva. Una ribelle che non ambiva a una dimora più ampia, ma all'uguaglianza al fianco dell'uomo amato, giacché l'Italia le aveva offerto il possesso del bene più inestimabile, quello dell'anima sua. Mentre giocava a Bumble Puppy con Minnie Bibb, la nipote tredicenne del rettore, un gioco antico e rispettabilissimo, che consiste nel lanciare le palle da tennis più in alto possibile, così che ricadano oltre la rete e rimbalzino l'impazzata. Alcune colpiscono la signora Honeychurch, altre vanno a finire chissà dove. Il discorso è sconnesso, ma serve a chiarire meglio le condizioni mentali di Lucy, poiché stava ingegnandosi di parlare simultaneamente col signor Bibb. «È stato un vero supplizio», disse la signora Honeychurch. «Prima lui, poi le signorine Allan, senza che nessuno sapesse quel che voleva, e tutti e tre seccanti da morire». «Ormai però è sicuro che vengano», disse il signor Bibb. «Ho scritto giorni fa alle signorine Allan. Mi chiedevano se il macellaio passa molto spesso e la mia risposta, una volta al mese, Deve averla impressionata favorevolmente. Vengono, vengono. Ho ricevuto stamani la lettera di conferma. Queste signorine Alan, io le odierò di cuore, gridò la signora Honeychurch. Solo perché sono vecchie e balorde saremmo tenuti a dire che care creature? Mi esasperano coi loro se, coi loro mai, coi loro in tal caso. E la povera Lucy è diventata l'ombra di se stessa, ma ben le sta. Il signor Bibb seguì con lo sguardo l'ombra che saltava e urlava sul campo da tennis. Cecil non c'era. Non si giocava a Bumble Puppy in sua presenza. Freddy possedeva in sommo grado il talento di aizzare le bambine e gli bastò mezzo minuto per trasformare Minnie da una fanciullina ben educata in un'energumena vociferante. Cecil li udì dalla casa e, nonostante avesse in serbo una notizia divertente che non vedeva l'ora di spiattellare, si astenne dallo scendere per timore di venire coinvolto e malmenato nella mischia. Non era un vigliacco e sopportava il male, se necessario, come lo sopportano gli uomini in genere, ma aborriva la violenza fisica della gioventù. E aveva pienamente ragione. La mischia, infatti, si concluse in un pianto. Peccato che le signorine Alan non possano vedere questa scena, osservò il signor Bibb nell'attimo stesso in cui Lucy, che stava cercando di consolare l'infortunata Minnie, veniva a sua volta sollevata di peso dal fratello. «Chi sono le signorine Alan?» domandò Freddy tutto trafelato. «Le affittuarie di Villa Sissi. Non si chiamano mica così!» In quel momento Freddy inciampò e ruzzolarono trionfalmente sull'erba tutti e tre. Ci fu una pausa. «Chi è che non si chiama così?» chiese Lucy, che ora si teneva in grembo la testa di Freddy. «Non si chiamano Alan le persone che hanno preso in affitto la villa di Sir Harry?» «Come sei sciocco, Freddy? Non ne sai nulla, tu, di questa faccenda. Sciocca sarai tu. Ho visto Sir Harry un minuto fa e mi ha detto... Honeychurch... Freddy era un imitatore mediocre. Alla fine ho trovato da affittare a della gente davvero ineccepibilissima. E gli ho risposto, urrà, amicone, e gli ho dato una pacca sulla schiena. Appunto, lui alludeva alle signorine Alan. No, signora, è un nome che assomiglia a Anderson». «Bontà divina, mancherebbe altro che fosse successo un nuovo pasticcio!» gridò la signora Honeychurch. «Te ne accorgi, Lucy, che ho sempre ragione, io! Ti avevo raccomandato di non immischiarti in Villa Sissi, sicuro, io ho sempre ragione, aver ragione così spesso! Mi impressiona assai! Non è che una delle tante cantonate che piglia Freddy! Freddy non sa nemmeno come si chiamano le persone che sostiene abbiano preso in affitto la villa invece delle signorine Alan!» «Sì che lo so, adesso mi è tornato in mente, si chiamano Emerson!» «Come hai detto?» «Emerson! Sono pronto a scommettere tutto quello che vuoi!» «Che banderuola è, Sir Harry?» disse Lucy con voce sommessa. «Mi rincresce di essermi data tanta pena per niente!» Poi si mise a giacere sull'erba e fissò il cielo terso. Il signor Bibb, la cui stima per lei cresceva di giorno in giorno, sussurrò alla nipote che nelle piccole contrarietà della vita bisognava comportarsi proprio così. Nel frattempo il nome dei nuovi inquilini aveva distolto la signora Honeychurch dalla contemplazione delle proprie virtù personali. «Emerson, Freddy? Sai di quali Emerson si tratta?» «Non mi risulta che ci siano degli Emerson a preferenza di altri», ribatté Freddy, che era democratico. Come sua sorella e come la maggior parte dei giovani, si sentiva naturalmente attirato dall'ideale dell'uguaglianza. E il fatto innegabile che esistessero diverse categorie di Emerson lo infastidiva oltre misura. «Mi auguro che siano gente per bene. Ma sì, Lucy». Lucy si era tirata su a sedere. «Lo vedo, sai, che storci il naso e pensi che tua madre sia una snob. Emerson è un cognome abbastanza comune», osservò Lucy. Aveva girato la testa di profilo. Seduta com'era sopra una balza erbosa, poteva contemplare altre balze ammantate di pini che digradavano ad una nel Weald. Quanto più si scendeva per il giardino, tanto più grandiosa appariva quella veduta laterale. «Se mi aveste lasciato finire il discorso, Freddy, avrei detto che mi auguro non siano parenti del filosofo Emerson, un individuo indisponente quanto mai. Sei soddisfatto adesso?» «E come?» brontolò Freddy. «E sarai soddisfatta anche tu, perché sono amici di Cecil, e perciò...» concluse il ragazzo con studiata ironia, «tu e le altre illustri famiglie della contea potrete andarli a trovare impunemente». «Di Cecil?» gridò Lucy. «Abbi un briciolo di educazione, carina», disse placidamente la signora Honeychurch. «Smettila di strillare, figlia mia, è una brutta abitudine che noto in te già da un certo tempo». Ma Cecil ha... Sono amici di Cecil, ripeté Freddy, e quindi davvero ineccepibilissimi. Honeychurch, gli ho telegrafato giusto adesso. Lucy si rialzò dall'erba. Era stata colpita duramente. Il signor Bibb provò per lei una vivissima simpatia. Mentre Lucy credeva di essere debitrice a Sir Harry Otway dell'affronto subito insieme alla signorina Alan, lo aveva tollerato da brava figliuola. Aveva ben diritto di strillare nel venire a sapere che l'affronto le era stato parzialmente inflitto dal fidanzato. Il signor Wise era dispettoso, no, peggio che dispettoso. Provava un gusto maligno a mettere i bastoni tra le ruote altrui. E il reverendo, che lo sapeva, guardò la signorina Honeychurch con maggior benevolenza del solito. Quando Lucy esclamò, «Ma gli Emerson di Cecil, è impossibile che siano gli stessi, c'è quel...» Il signor Bibb non ritenne strana l'esclamazione, ma ci vide un'opportunità di cambiare discorso mentre la ragazza riacquistava il dominio di sé, e lo cambiò come segue. «Lei allude forse agli Emerson che conoscemmo a Firenze? No, non dovrebbe risultare che siano loro, secondo me. Probabilmente tra quegli Emerson e gli amici del signor Wise ci corre come dal giorno alla notte. Ah, signora Honeychurch, che tipi curiosi, che tipi bizzarri! A noi comunque piacevano, non è vero?» Si rivolse a Lucy per averne conferma. «Fiasco ti ha messa nel sacco questa volta», osservò Freddy, senza notare il cupo rossore che si era diffuso sul volto della sorella. Lucy non riusciva a riprendersi. Il signor Bibb se ne accorse e continuò a sostenere il peso della conversazione. «Gli Emerson di cui parlo erano padre e figlio. Il figlio è un bel pezzo di giovanotto, forse più bello che buono, e niente affatto stupido, a me sembra, ma parecchio immaturo, imbevuto di pessimismo, eccetera. Il nostro speciale sollazzo, però, era il padre, un sentimentalone così caro, e c'era chi sosteneva che avesse ucciso sua moglie». In normali condizioni di spirito il signor Bibb non avrebbe mai riferito una simile maldicenza, ma siccome gli premeva far schermo a Lucy nella sua piccola difficoltà, diceva la prima sciocchezza che gli passava per la mente. Lucy domandò a suo fratello se Cecil era in casa. «Ehi, non andartene!» gridò Freddy, tentando di agguantarla per le caviglie. «Bisogna che vada», disse Lucy gravemente. «Finiscila con le tue stupidaggini. Esageri sempre quando si gioca». Risalì a passo svelto il giardino con la faccia ancora rossa per la vergogna. Una parola di Cecil, ne era certa, sarebbe stata sufficiente a calmarla. «Cecil!» «Salve!» gridò Cecil e si sporse dalla finestra del fumoir. Appariva di umore eccellente. «Speravo che saresti venuta. Ho sentito tutti i vostri schiamazzi, ma c'è più spasso quassù. Io, proprio io, ho ottenuto una grande vittoria a favore della musa comica. Ha ragione George Meredith. La causa della commedia e la causa della verità sono sostanzialmente le stesse. E io, proprio io, ho trovato gli inquilini ideali per la travagliata villa. Sissi, non arrabbiarti, non arrabbiarti. Quando avrai saputo com'è andata, mi perdonerai senza fallo». Cecil era molto attraente quando si illuminava in volto e disperse in un lampo i ridicoli presentimenti di lei. «Lo so già», rispose Lucy, «ce l'ha detto Freddy. Sei cattivo, Cecil. E dovrei perdonarti per giunta. Pensa solo a tutta la pena che mi sono data per nulla. Le signorine Alan sono un po' noiose, lo ammetto, e preferirei anch'io avere dei vicini simpatici come saranno certo i tuoi amici. Ma dovresti smetterla di prendere in giro la gente». «Miei amici?» rise Cecil. «Ma Lucy, il bello ha ancora da venire. Su, entra in casa». Lucy però non si mosse. «Lo sai dove li ho conosciuti, questi inquilini ineccepibili?» «Alla National Gallery, la settimana scorsa, quando sono andato a Londra a trovare mia madre». «Che posto strano per fare delle conoscenze», disse nervosamente Lucy. «Non capisco bene». «Nella sala della scuola Umbra. Non li avevo mai visti in vita mia. Stavano ammirando Luca Signorelli, stupidamente, si intende. Comunque, abbiamo attaccato discorso e li ho trovati di un candore disarmante. Erano stati in Italia». «Ma Cecil...» Cecil continuò più ilare che mai. «Nel corso della conversazione mi hanno detto che cercavano una villetta in campagna, il padre per abitarci, il figlio per passarci il weekend. Che magnifica occasione per fare mordere la polvere a Sir Harry, ho pensato, e perciò mi sono segnato il loro indirizzo. Ho preso informazioni a Londra, scoperto che non sono precisamente due furfanti, mi sono divertito da pazzi, e infine ho scritto a Sir Harry per comunicargli che...» «Cecil, no, non è giusto. Probabilmente io li conosco già». Cecil le tolse la parola di bocca. «È giustissimo, invece. Qualunque mezzo è giusto quando serve a punire uno snob. Quel vecchio gioverà enormemente al vicinato. Sir Harry è troppo disgustoso con le sue gentil donne decadute. Mi ero prefisso di dargli una lezione un giorno o l'altro». «No, Lucy, le classi sociali dovrebbero mescolarsi tra loro e non passerà molto tempo che ne converrai anche tu. Dovrebbero imparentarsi, amalgamarsi in mille modi. Io credo nella democrazia». «No, che non ci credi», proruppe Lucy. «Non sai neppure cosa significhi questa parola». Cecil la fissò con tanto d'occhi ed ebbe di nuovo la sensazione che non le riuscisse d'essere leonardesca. «No, che non ci credi». La faccia di Lucy non era più artistica. Era quella di un intrattabile virago. «Non è giusto, Cecil. Io ti disapprovo moltissimo. Tu non c'entravi, non dovevi permetterti di distruggere tutto quello che ho fatto per le signorine Alan e di coprirmi di ridicolo. Lo chiami far mordere la polvere a Sir Harry, ma ti rendi conto che si ritorce contro di me? Lo considero un atto estremamente sleale da parte tua». E Lucy tornò sui suoi passi. «Caspita, che caratterino stizzoso!» pensò Cecil alzando i sopraccigli. «No, era peggio che uno sfogo di stizza. Era snobismo», concluse. Fin quando Lucy aveva creduto che fossero i suoi brillanti amici a soppiantare le proprie candidate, non ci aveva dato importanza. Cecil rifletté che quei nuovi inquilini di Sir Harry Otway potevano avere un certo pregio dal punto di vista educativo. Progettò di tollerare il padre e di sciogliere la lingua al figlio, che era taciturno. Li avrebbe condotti a Windy Corner nell'interesse congiunto della musa comica e della verità. Tommaso Ragno ha letto Camera con vista di Edward Morgan Forster, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it.